Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra il senso della mia musica potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli altri uomini. Ludwig van Beethoven. Qualcosa sta succedendo in noi. Intanto buongiorno da Nicoletta Carbone. La musica, a volte più delle parole, ci nutre, ci cambia, ci attiva, ci dà sollievo, serenità, disperazione, gioia, consolazione, ci cambia il corpo, ci fa venire la pelle d'oca, ci fa muovere i piedi. Perché e come riesca a fare tutto questo? La domanda a cui tentano di dare una risposta scienziati, paleontologi, neurologi, musicologi, etnologi e anche quanti altri hanno cominciato a studiarla. Ma io voglio chiederlo a chi la musica la fa e la vive in prima persona. In studio con me, io sono felice di più, c'è Eugenio Finardi. Ciao Eugenio. Ciao. Sì. Ciao Nicoletta. Allora Eugenio, la musica ti ha formato e cambiato, da musica ribelle all'incontro con Vladimir Vysotsky, da rocker a cantatore, sei un artista proprio sempre in continua evoluzione. Questo di te mi piace perché non finisci mai di stupirci. Ma perché è la musica che non finisce mai di stupire. Prima di tutto tu hai detto nato, ecco, io sono nato in uno strumento musicale. Mia madre è una cantante lirica e non ha mai smesso di cantare. Bella questa di nato in uno strumento musicale, mi piace molto. E pensa cosa deve essere stato. E quindi io sono nato in un certo senso già pronto ad essere io stesso uno strumento musicale, nel senso ambivalente che sono perfettamente intonato nelle 12 note occidentali, diciamo, della scala temperata, però mi sono precluse ogni, non so, la musica orientale, persino il rebetico greco, tutte le altre scale che non sono quella temperata occidentale, mi sono precluse, per cui questa cosa è stata un grande vantaggio, ma come dire, anche un grande limite, perché conoscendo i propri limiti che si scopre. Però continuando ad essere curiosi, ad andare avanti, in fondo la musica, e tu lo dimostri, è una scoperta. Forse un musicista ha la forza e il potere di quella tempesta di cui tu parli in una delle tue canzoni che io amo di più, che è Shamandura. Se la tempesta ti spingerà verso una spiaggia deserta, tu a seconda sarà un'imprevista scoperta, e con un po' di fortuna una sciamandura. Non siamo soli, cari ascoltatori, qui in studio con me Luciano Ballabio, autore di Come un'orchestra. Buongiorno, ben ritrovati. Voglio leggere anche il sottotitolo, Fare musica insieme per crescere insieme, con la presentazione di Salvatore Accardo. Intanto buongiorno, voglio presentarle uno scrittore, ma ancora prima un coach, un formatore, un allenatore, possiamo dire, no? Certo. Allora, lei tra l'altro è un musicista non professionista. Quanto la musica l'ha aiutata a essere un buon allenatore? La musica e il mio lavoro apparentemente non hanno avuto mai nessuna relazione diretta fra di loro, e questo è stato per molti anni, posso dire un paio di decenni. E poi sorprendentemente questo collegamento e l'intreccio fra il suonare violino e il suonare in un'orchestra sinfonica amatoriale e l'allenare le persone, i manager, le persone che lavorano a migliorare le proprie competenze, le proprie capacità, le proprie attitudini, si è rivelato un valore aggiunto straordinario. Fare musica significa allenarsi continuamente, significa allenarsi da soli, significa affrontare difficoltà, significa migliorare progressivamente e indefinitamente le proprie capacità. Quindi Eugenio, voglio dire, un superuomo quasi. No, un superuomo è Carlo Boccadoro, per esempio, il direttore d'orchestra con il quale farò la scala, con il quale ho fatto il progetto Vysotsky insieme a Filippo Del Corno. Sono gli animatori di un gruppo di musicisti contemporanei che si chiama Sentieri Selvaggi, e musicisti che sono musicisti di altissimo livello. Faremo una, tra l'altro reciterò un'opera di Carlo Boccadoro alla Scala il 23 di gennaio. Bisogna pensare che tutte le parole che concernono la musica sono parole di socialità, concerto, accordo, armonia, anche contrappunto, cioè c'è il confronto, c'è la dialettica. Imparare a suonare è forse l'attività più umana, più in cui è più necessario respirare, sentire non il secondo, il microsecondo, cioè quell'attimo di un levare musicale, è che tutta un'orchestra di più di 100 persone può sentire nello stesso momento. È un esempio straordinario di concerto, proprio di esseri umani che si mettono d'accordo per uno scopo oltretutto di bellezza. E mi fa molto piacere il riferimento alla bellezza, che è... Questa è la Verdi per tutti. Vero? Lei ha suonato. C'è il suo violino. C'è uno di questi musicisti. Questo concerto così, di cui Eugenio parlava, in un'eccezione particolare, proprio gli uomini che si incontrano insieme e parlano per fare bellezza. Questo è magnifico. Quelle e quindi che abbiamo c'era sentito anche lei. Erano le note dell'Arlésienne di Bizet che abbiamo eseguito con la Verdi per tutti, l'orchestra sinfonica amatoriale della quale ho l'onore, il piacere, la gioia di fare parte dal 2006, quando è nata in auditorium a Milano per iniziativa della Fondazione Verdi. Prima Eugenio citava centinaia di musicisti, il nostro organico è arrivato a sfiorare ormai le 100 unità e quando prima dicevamo allenamento alla bellezza e allenamento all'affinamento delle proprie mm-hmm. capacità, allenamento a sviluppare l'attenzione all'ascolto di sé e all'ascolto degli altri, all'osservazione, e mi ha fatto molto piacere il riferimento al respiro, a respirare insieme, a percepire il proprio respiro, a percepire quello. È proprio quello il momento più bello di un concerto, è quando il direttore all'inizio dà quel piccolo segnale di attesa, attenzione, siamo pronti, e tutti trattengono il fiato per poi iniziare tutti insieme. È veramente una magia incredibile. Sì, un secondo di eternità. Sì, è il momento prima del tutto, come il momento prima del Big Bang. Voi ne parlate da musicisti. Però si può parlarne anche da sportivi, sai, perché la musica in realtà è l'espressione più sublimata del testosterone. No, raccontami. Allora, il testosterone, cioè l'ormone maschile, sì, ha come caratteristica, vabbè, a parte l'aggressività e questo tipo, e la sessualità, insomma, sì, quegli aspetti lì, sviluppa la tridimensionalità, la capacità di muoversi nelle tre dimensioni. Per quello che gli uomini sono così appassionati di sport, fondamentalmente tutto quello che piace agli esseri umani di sesso maschile riguarda una forma di balistica, che sia tennis, sì, piuttosto che tirare pallacanestro, calcio, guidare un'automobile, la poesia che un uomo prova facendo una strada in salita in sì, velocità, mentre sua moglie urla perché guidi come un pazzo, è legata al testosterone. Per strano che possa sembrare, tu che suoni me lo potrai confermare, l'esecuzione di un brano musicale è un po' come fare, non so, una gara di sci, sì, per esempio. Cioè c'è l'inizio, quel momento appunto di attesa, poi si parte, scatta la levetta, allora all'inizio c'è un rettilineo e la prima strofa, poi primo ostacolo, lo special, il passaggio difficile, poi un altro momento così. Cioè è un percorso in tridimensioni, in tre dimensioni, però sublimate. Guarda, ti meriti un messaggio che è arrivato ora: la musica è l'anima della vita ed Eugenio è l'anima della musica. Andrea, contrabbassista trentenne amatoriale. Io voglio anche capire che cosa è la musica per chi la musica non la esegue, per chi non suona. Abbiamo raccolto alcune voci. Nutrimento per l'anima e comunicazione. Io suono, è bellissimo, è uno stile di vita. La musica è una delle forme di espressione più completa che ci sia, imprescindibile, fondamentale. Rilassarmi per comunicare, per riempire i tempi, cioè riempire la mia giornata, tutto. Tutto quello che riesco a... cioè quando riesco a sentirla, la sento. Per me la musica è principalmente comunicazione, arte e soprattutto cultura. Penso che sia una dei piaceri più grossi. Guardi, in questo periodo ascolto pochissimo la musica, però diciamo che è un modo per vedere la realtà in maniera diversa, cioè una cosa che rende più piacevole la realtà. Un passatempo piacevole che mi fa passare un po' di tempo tranquillo, mi rilassa, mi piace ascoltare la musica di tutti i tipi, a me piace. Cioè non solamente rock, oppure ascolto anche la musica classica a volte. La musica, un magnifico mezzo per rilassarsi, per divertirsi, per vivere emozioni molto, anche molto profonde. Questa è la risposta che arriva dalla maggioranza delle persone quando vengono interpellate sul senso e sulla funzione che la musica ha nella loro vita. Risposta esatta, siamo tutti assolutamente d'accordo, ma vi invito a riflettere su uno stimolo che ho letto sul libro di Ballabio, che cita il pensiero di un neurologo, Gottfried Schlug. La musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare l'organo più importante del corpo umano, il cervello. Benvenuta la dottoressa Lopez, neurologa, responsabile medico del Centro Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifica del progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani. Buongiorno e bentornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno Maria Luisa. Di solito, dottoressa Lopez, noi pensiamo che la musica, anzi sentiamo che la musica arriva al cuore inteso come emozione. Invece la musica, secondo questo neurologo, è proprio una sorta di benzina, il carburante del nostro cervello. Mi chiedevo, da dove le arriva questo potere? Che cosa ne sapete oggi, alla luce anche delle ricerche più recenti? Beh, intanto non smentirei il discorso delle emozioni, che sono anche loro carburante del cervello, per cui arriva anche lì, arriva principalmente lì, e poi il cervello lo utilizza tutto quello che arriva. Proprio l'influenza della musica su memoria e apprendimento sarà l'argomento del prossimo convegno di neuroscienze e musica organizzato dalla Fondazione Mariani, che si terrà a Edimburgo, città bellissima fra l'altro, quindi molto consigliabile, a giugno del 2011, e alcuni dei partecipanti saranno proprio Nina Kraus e Gottfried Schlug, che sono persone che, come lei ha giustamente detto, hanno messo in rilievo come per esempio suonare uno strumento sia una esperienza intensa, multisensoriale, motoria, che comincia molto presto e diciamo ci fa vedere il musicista come un modello di apprendimento, però di fatto questo può essere anche nella persona che usa la musica senza essere per forza un professionista. Quindi sicuramente ne sappiamo tanto, e fra l'altro, riagganciandomi un po' a quello che si diceva, Tomasello, che è un ricercatore che si occupa di sociale da tanto, ne parla proprio come uno stimolo biologicamente rilevante anche per questi aspetti sociali, avendolo proprio studiato anche nell'ambito di gruppi che fanno musica e di bambini che fanno musica insieme. A proposito di bambini, Eugenio, tu hai detto: io sono nato, no? In uno strumento musicale. Sì. In uno strumento musicale. Che ricordi hai di te bambino? Tra l'altro tu avevi un talento spiccato, se possiamo usare questa parola, per la musica, tanto che a 9 anni ho letto che hai inciso il tuo primo album, Palloncino Rosso Fuoco. Sì, era un piccolo, un EP, sì, di quelli però 33 giri ma piccolini. La cosa strana è che l'ho registrato all'Istituto dei Ciechi, dove c'è la scuola di Via Vivaio, dove mia figlia va adesso, come è una scuola musicale, studia anche il violino. In realtà la cosa strana è che io non ho un grande strumento musicale. Le mie corde vocali non sono particolarmente speciali, ho una voce normale, non avrei potuto essere. Non so, tu di quello che vuoi. Beh, a me piace, vero? Diciamo che, non so, ci sono, diciamo, Pavarotti le aveva migliori delle mie, ecco, non credo che sarei stato un grande cantante lirico. Però, appunto, mi ricordo di essere seduto in un angolo mentre mia madre faceva lezione, quindi di aver imparato molto presto l'aspetto anche fisiologico della musica. La musica si può usare anche per farsi passare il mal di pancia. Io ho a casa dei dischi di musica classica cinese, medicinali, ho dischi sì, contro l'ansia, per dottoressa addormentarsi, Lopez, per dobbiamo fare subito un CD per il mal di testa, per il mal di pancia, anti-ansia. Volerei andare a Gaetano da Napoli, poi ti stampo i messaggi che arrivano per Eugenio. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Riesce a essere... ringraziare Edoardo e Eugenio Finardi, perché quella canzone che oggi ho imparato a volare, quando ascolto quella canzone mi fa veramente sentire libero e volare. Grazie. Grazie Gaetano. Grazie Gaetano. Tra l'altro l'unica, è vero, tu hai scritto, essendo così milanese non posso cantare la canzone napoletana. Purtroppo no, insomma, punto. Voglio dire, c'è Massimo Ranieri che lo fa così bene che, insomma, se mi mettessi io a cantare, però posso cantare Te voglio bene assai, perché è stata scritta la musica da Donizetti, io sono di origini bergamasche, magari e la quindi facciamo. Io posso fare. Ma dottoressa Lopez, noi ci eravamo lasciati ai bambini, Eugenio è nato in un ambiente sicuramente stimolante, ma non serve nascere in una famiglia di musicisti, insomma non è necessario avere una mamma con cantante lirica. In fondo la musica, e molti studi lo dimostrano, nasce con noi. Noi ascoltiamo già la musica, il suono della voce della nostra mamma, e ci sono delle ricerche che dimostrano che i bambini con i primi vagiti sanno riconoscere le note e la musica rispetto al rumore. Credo nella musica così come certe persone credono alle favole. Quello che sento è un dono di mia madre e mio padre. Un giorno, tanto tempo fa, si sono innamorati. La musica. Penso che se imparassi a suonarla, loro capirebbero che sono vivo. Devi amare la musica più di quanto ami il cibo, più della vita, più di te stesso. A presente, Mozart era un prodigio musicale. Prodigio? Esatto! Ha visto una di quelle cose e vive sotto il mio letto. Sai cos'è la musica? Una connessione armonica fra tutte le creature. È intorno a noi. Non bisogna fare altro che ascoltare. Dottoressa Lopez, abbiamo ascoltato un breve estratto, La musica nel cuore, che Eugenio Finardi naturalmente ha subito riconosciuto, visto anche L'occhietto, sì. Che è un film che entra dentro un po'. Mi ha commosso. Come la musica, e noi siamo fatti per suonare e per ascoltare musica? Sì, sì, mi dispiace di essermi sovrapposta prima in modo cacofonico, però di fatto sì, siamo a quanto pare fatti per ascoltare la musica, e infatti non è necessario nascere in un ambiente estremamente musicale, anche se implicitamente siamo permeati di musica, anche se non esposti in modo specifico. Tuttavia San Raffaele, per esempio, una delle ricerche più recenti che ci piace citare, perché è stata fatta appunto in Italia dalla dottoressa Saccoman e dai suoi colleghi, ha dimostrato che entro i primi 3 giorni di vita bambini riconoscono la musica da rumori e da alterazioni della musica, mostrando proprio una lateralizzazione specifica sull'emisfero destro attraverso la risonanza magnetica funzionale. Questo ci conferma quello che empiricamente già sapevamo, ma anche quello che molti ricercatori sapevano rispetto alla preferenza, per esempio, dell'ascolto dei bambini della musica e delle ninamanne rispetto ad altri tipi di stimoli sonori, anche quello linguistico, per esempio, rispetto al suono linguistico e al suono musicale delle proprie mamme, preferiscono quello musicale. Quindi noi sappiamo che siamo predisposti, che sia poi questa una cosa innata, evolutivamente importante, questo è ancora tutto. Ecco, dottoressa, sono Eugenio Finardi, buongiorno. Piacere, moltissimo piacere. Moltissimo. Ero appassionatissima del suo extraterrestre. Ah, grazie. Dottoressa, io mi domando proprio questo, ma come mai nell'evoluzione dell'uomo, appunto nell'emisfero destro, si è sviluppata questa parte così importante del cervello e così ampia dedicata alla musica? Che cosa serve? Guardi, le dirò, questo è un po' controverso, no? Perché ci sono dei linguisti anche molto importanti come Steven Pinker che sostengono che tutto sommato non era necessario che si sviluppasse la musica e che se non si fosse sviluppata ci saremmo evoluti normalmente senza nessun problema. Però altri ricercatori sostengono invece che questo sviluppo era necessario. Per esempio Steven Meisen, che ha scritto quel libro bellissimo che si chiama Il canto degli antenati. Ah, bellissimo. Ecco, lui ritiene, e alcuni dei suoi studi anche sugli scavi, perché è anche comunque un paleoarcheologo, non so, un etnomusicologo, non so come definirlo. Come definiamo? Esatto, però lui sostiene che lo sviluppo di questo proto-linguaggio fu necessario proprio per poter affrancarsi, diciamo, dalla non comunicazione che c'era nelle prime popolazioni, che infatti poi si estinsero e non produssero né manufatti né comunicazione, diciamo, né viaggi di popolazioni eccetera, cosa che invece viene dopo, quando finalmente avevano un mezzo per comunicare. Ma la prima comunicazione, secondo lui, era questo M, che lui chiama HMMM, questo necessario anche per tenere tranquilli i bambini mentre loro facevano altro, per esempio raccogliere frutti eccetera, perché non cadessero preda dei predatori piangendo, per esempio, no? Quindi abbiamo cantato prima di parlare, dottoressa. Esatto, Lopez, questa necessità di contatto inizialmente proprio fra genitori e figli, e per uno scopo di sicuro di sopravvivenza, ha poi creato questa prima comunicazione che secondo lui ha poi portato allo sviluppo del vero e proprio linguaggio. Quindi a quanto pare serve. Eccoci, siamo di nuovo insieme qui in studio con me, Luciano Ballabio, Eugenio Finardi, in linea la professoressa Lopez. Luciano, ti vorrei chiedere quanto l'aver imparato a suonare uno strumento musicale ti ha cambiato, e soprattutto se è stato difficile imparare a suonare. È stato difficilissimo, continua a esserlo e continuerà ad esserlo finché continueremo a suonare, ma è stata una esperienza di arricchimento, di apprendimento, e continua ad esserlo. Un'esperienza che è trasferibile in realtà ad ogni persona. Nel mio lavoro ho scoperto che l'orchestra, per questo abbiamo intitolato il titolo del libro Come un'orchestra, fare musica insieme per crescere insieme, è una straordinaria metafora ed è una straordinaria esperienza, perché possiamo riprodurre in questo momento. Noi stiamo suonando insieme, stiamo facendo orchestra, anche se è un'orchestra virtuale, con persone che sono qui presenti ed altre che sono molto lontane da noi, ma la possibilità di utilizzare il linguaggio, la semantica musicale, come suggeriva prima Eugenio Finardi, è una possibilità che è data a tutti, è data ai bambini, ai piccolissimi, addirittura prima della nascita, come sentivamo poco fa, ma è data anche agli adulti, è data anche alle persone di qualsiasi età, che attraverso quel loro strumento musicale naturale, che è la voce, oltre che attraverso gli strumenti, possono fare coro, fare orchestra e produrre, generare, creare armonia. Quindi sentiamo uno di questi strumenti, di questa orchestra di cui siamo così tasselli. Franco, dalla provincia di Pavia, non so che cosa suoni, ma in questa orchestra che definiva così il dottor Ballabio. Franco? È uno strumento muto, ci sono degli strumenti muti. Il silenzio fa parte costitutivamente della musica. È un brano di John Cage anche, 3:44. Io volevo dire una piccola cosa, rispondere alla mia domanda di prima, che cosa serve la musica nella mia personale interpretazione. Io credo che la musica serva a quarzarci con l'universo, perché la musica è un collegamento diretto con la matematica. In realtà i musicisti parlano o con parole, appunto, come accordo, armonia, concerto, ma quando poi si devono mettere d'accordo parlano in numeri, questo pezzo in tre quarti, in quattro quarti, anche quando diciamo un la, in realtà diciamo 440 hertz al secondo, almeno quello centrale, oppure i suoi multipli. È un linguaggio universale proprio perché è come la matematica, ci ricollega direttamente alle leggi fondamentali dell'universo. Io uso per esempio Domenico Scarlatti, uno straordinario autore di 777 sonate, mi sembra, barocche, proprio per quarzarmi, come una volta si usava il monoscopio della televisione, sì, per rimettermi in asse. All'interno della musica, in particolare della musica barocca, ci sono quasi tutti i riferimenti, che è un po' come se facessimo il punto nell'universo. A questo punto, non a caso, la musica è collegata con la danza, il ritmo, prima parlavamo del respiro, l'armonia che sta intorno a noi e che sta dentro di noi e che possiamo perdere e possiamo distruggere, ma possiamo anche continuamente ricreare, rinnovare e anche recuperare. Persino il traffico può diventare una danza. Dottoressa Lopez, il cervello del musicista è un cervello un po' diverso? Beh, sì. Sì, senz'altro è un po' diverso. Un perché po'. No, perché già, c'era Eugenio Finardi che era già... un po', solo un po', se no. Diciamo che è un po' diverso. È un bel po' diverso ed è anche proporzionale agli anni di allenamento, questa diversità. È diverso dal punto di vista anatomico, come è stato dimostrato, e come però viene fuori anche solo dopo un anno di training, per esempio in bambini che fanno violino, per dire. Quindi è una diversità accessibile, non è una cosa che... è assolutamente impossibile da acquisire. Si acquisisce, esattamente. Hanno visto proprio che i bambini, che all'inizio erano esattamente uguali dal punto di vista delle risonanze magnetiche, quindi per quanto si può dire uguali, e poi dopo un anno di training effettivamente si differenziano. Questo da una parte è normale, perché anche un allenamento fisico può dare una diversità, perché c'è una maggiore rappresentazione corticale, quindi ci sono delle cose che sono abbastanza ovvie, no? Attiviamo degli strumenti che sono i nostri muscoli, quindi è chiaro che ci sia una certa diversità. Però da un'altra parte, a quanto pare, la cosa che veramente rende diverso poi chi davvero fa musica, non solo a livello professionista, ma chi così impara la musica, è proprio quella capacità di integrare tutti gli stimoli all'interno del suo contesto. E questa è una funzione importantissima. Integrare significa anche saper selezionare quelli più salienti, e quindi significa di fatto alla fine utilizzare al meglio la propria intelligenza. Quindi forse sono queste le cose, quando diciamo si diventa più intelligenti, in realtà si diventa più attenti e più abili ad utilizzare le proprie funzioni esecutive per attivare tutte le proprie risorse cognitive al meglio. Quindi questo è interessante anche per quello che dicevate prima rispetto alla competenza matematica, alle competenze visuospaziali, quelle tipiche, diceva Eugenio Finardi, del testosterone contrabbilanciate. Le è piaciuta forse anche a lei, vero, questo del testosterone? Se la rivenderà? Anche, sì, me la rivendo, anche se difendo la capacità di essere empatica allora della donna. No, no, io non era l'aspetto maschile e femminile, perché lei sa che anche le donne hanno testosterone, quindi che vanno integrati, come si diceva. Certo, l'equilibrio risiede in mezzo fra il sistema, infatti, e l'empatia, no? Per cui siamo tutti, spero. No, no, per carità, non era quello, era che il testosterone esprime la tridimensionalità e la musica, certo, è una tridimensionalità, sì, sublimata. Insomma, comunque, mi dispiace banalizzare dopo questi interventi, la musica ci cambia nel farla e nell'ascoltare, la musica cambia, forse la società può cambiare il mondo. Ah, scusami. Il fatto che la musica possa esprimere l'invisibile, l'ineffabile, offre una forma di creatività particolarmente feconda. Questa capacità misteriosa e unica di esprimere ciò che non possono esprimere altre forme d'arte le conferisce un potenziale infinito e un'intensa sensibilità. José Antonio Abreu. Grande, grande. grande uomo, molti di noi hanno iniziato a conoscerlo perché è Abbado che per primo ce ne ha parlato, almeno a noi che non siamo addette ai lavori. Vogliamo descriverlo, questo parte tutto 35 anni fa in Venezuela, e lui, grande direttore d'orchestra, cosa decide di fare? Di usare la musica per togliere dalla strada, dalla criminalità, i bambini, ed è un successo strepitoso. Vorrei una lettura di voi tre, perché poi intanto voglio salutare Adriana Verchiani che è in linea con noi, sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici. Buongiorno Adriana. Allora, è il sistema, è arrivato anche in Italia, ma vorrei proprio rapidamente, insieme a Luciano Ballabio e ad Eugenio Finardi, descrivere questo, l'anima di questo, del sistema, che sta arrivando anche da noi, è arrivato. Eugenio. Per Abreu è stato, io credo, prima di tutto vorrei lanciare una proposta proprio da questa autorevole radio, è quella di proporre Abreu per un premio Nobel, perché credo che abbia è già stato fatto. Perché veramente quello che lui è riuscito a fare in Venezuela, cioè portare, usare l'orchestra e la musica e la disciplina della musica, perché non dimentichiamoci che la musica apre enormi possibilità di libertà a chi ha la disciplina per impararla e ha la voglia di faticare. E ha preso l'enorme energia dei ragazzi di strada del Venezuela, e ha cominciato da un'orchestra e poi tante altre, e creando proprio quello che si chiama il sistema, che sta producendo degli straordinari musicisti con una garra, proprio direbbero loro, con una forza. Adriana, ed è arrivato anche qui da noi. È arrivato, ma è arrivato anche tanto tempo fa, e che noi siamo particolarmente distratti di fronte a queste realtà. E già dal 98 a Firenze un concerto splendido, un concerto incredibile di questa orchestra prodigiosa, la Bolivar, sì, che era a quel tempo formata dal, diciamo, l'80% erano ragazzini, né più né meno. Il primo violino era l'attuale Diego Matteus, e chi dirigeva era proprio Dudamel. E ci fu uno scambio di abbracci e di affettuosità fra l'Orchestra Giovane Italiana, voluto questo scambio proprio da Abreu, fra loro, i ragazzi del venezuelani e i ragazzi italiani, che fu veramente qualcosa che si è stampato nell'anima. E naturalmente il grande abbraccio fra due giganti della musica come Abreu e Farulli. Quando poi Abbado ci ha chiamato per lanciare questo progetto, da noi era già, come dire, nell'anima da un pezzo. Ecco, io vorrei spezzare una lancia in questo senso anche per la Scuola Musicale di Fiesole, che è stata sempre all'avanguardia in tutto il mondo, ed è veramente come dire, una fiaccola proprio per la cultura italiana, e che non sta, la direttrice me lo confermerà, sta come tutte le istituzioni culturali e tutte le scuole patendo insomma a livello di finanziamenti, e sarebbe veramente un peccato. Io per esempio ho mia nipote americana che è venuta, che in questo momento è a Fiesole, studia violoncello, ed è venuta dagli Stati Uniti per studiare lì. Ecco, e quindi noi abbiamo delle situazioni di alta eccellenza che come altre cose sono a rischio. A proposito della Scuola di Musica di Fiesole, dove si è tenuto un convegno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un convegno internazionale Musica e Società, in quell'occasione mi piace leggere, c'è un messaggio del maestro Claudio Abbado che spiega un po' le ragioni, no, di queste orchestre musicali, e ve ne leggo una delle due, poi potete leggerla sul nostro sito, perché mettiamo questo scritto del maestro Abbado. La gioventù è stata letteralmente